Lavoro per un'azienda tedesca chiamata Loop FM. La nostra sede è a Bamberg, nel sud della Germania. Loop FM si occupa della manutenzione di strutture e attrezzature, come sistemi antincendio, aria condizionata, riscaldamento, porte elettriche, impianti di illuminazione, eccetera. E te? Cosa bella fai per la vita?